sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Ok, bentornati in onda con Sono Solo Nuvolette. In effetti oggi è un po' troppo pop questa sigla, perché la vera bellezza del fumetto, della cultura pop, è l'affrontare tutta una serie di sfumature di colori. E se il colore scelto di oggi, se dovessimo scegliere un colore oggi, sarebbe probabilmente il nero, il noir, detto la francese. Perché beh, ho il piacere e l'onore di avere qui Pasquale Ruiu. Ciao a tutti. Oggi un po' leggermente giù di voce, perché altrimenti hai una splendida voce ai cui confronti la mia sfigurerebbe un po', quindi siamo in pari almeno. Non esageriamo, comunque mi scuso perché arrivo veramente da due giorni di calo di voce. Oggi comincio a parlare, cioè quelle 1, 2, 3 massimo corde vocali, okay, che funzionano, cerchiamo di usarle. Vabbè, a me è sempre molto colpito, già dalla prima volta che ai tempi di Torino Comics ti sentii per telefono, mi è sempre colpito questa tua voce molto presente e sono riuscito poi dopo, e qui così ti introduco brevemente, questa tua doppia anima di sceneggiatore e doppiatore. Sì, c'è stato, diciamo, il mio primo mestiere dopo la laurea, che mi ha accompagnato per tanti anni e tuttora mi accompagna, e nonostante non sentendomi così non potrebbe sembrare, è stato quel lavoro di doppiatore che comunque faccio da 30 anni sia a Milano che a Torino. Poi ultimamente è diventato ovviamente più di nicchia, perché il lavoro di sceneggiatura occupa quasi tutto il mio tempo. Ok, però io andrò in controtendenza, che probabilmente molti ti dicono: ma cosa c'entrano questi due mondi? Secondo me, poi conoscendo il tuo stile di scrittura del fumetto, c'è abbastanza vicinanza di voce, c'è un'armonia di voce che tu metti nel doppiaggio, che è anche un'armonia di scelta delle parole, chiaramente nelle parti più letterarie, nelle voci fuori campo, nelle voice over, quindi secondo me non sono così lontani. E tu artisticamente probabilmente fai convivere senza questi problemi questi due mondi, giusto? No, assolutamente, infatti quello che comporta la recitazione in fondo non è così lontano dalla scrittura, perché anche lavorare sui personaggi, anche sui personaggi bonelliani, in fondo vuol dire calarsi, cioè entrare nel personaggio. Se io scrivo Dylan Dog, devo entrare nel personaggio Dylan Dog. Se scrivo Tex, devo entrare nel personaggio Tex. Quindi c'è un lavoro a monte di preparazione che non è così dissimile. Io in tempi lontanissimi ho fatto teatro, okay, e non è così dissimile dal lavoro sul personaggio che si fa in teatro. Cioè devo veramente informarmi, documentarmi, certo, fino al punto in cui questa cosa mi viene naturale. E per ampliare ancora il settore, tu hai anche diretto alcuni cortometraggi, quindi c'è anche un discorso di regia anche per, certo, il fumetto, che è molto importante. Esatto, tutto meno che lavorare, insomma. Vabbè, no. Però il lavoro di regia io ho esordito nel fumetto proprio portando dei cortometraggi in Bonelli, okay, dicendo: io so fare questo. E uno di questi cortometraggi era piaciuto a Antonio Serra, poi a Mauro Marcheselli, poi allo stesso Tiziano Sclavi, da quello che, okay, mi raccontano, ed è stato quello, grazie a quello, che poi ho cominciato a lavorare per Dylan Dog ormai più di 20 anni fa. E tra l'altro parliamo, per chi, io cerco sempre di dare un po' di flash a chi non è totalmente dell'ambiente, quindi Tiziano Sclavi, parliamo di sicuramente uno dei più importanti sceneggiatori italiani, il creatore di Dylan Dog. Esatto. E tu sei poi arrivato a scrivere Dylan Dog tramite, esatto, questo. Nathan Never e Dylan Dog sono stati le mie prime esperienze come sceneggiatore, okay, in Bonelli. Avevo, okay, avuto precedenti esperienze piccole, okay, però diciamo nel mainstream fumetto sì, con quei due personaggi. Sì, sì, che annoio sulle distinzioni mainstream, genere, vado molto di vocabolario su queste frequenze digitali, perché mi piace fare in modo che tutto questo, che è un patrimonio, c'è tantissima cultura, tantissimo lavoro, tantissima tecnica, sia un po' più comprensibile anche a chi magari vede la parte superficiale. Certo. C'è tantissimo studio e immagino che nel corso degli anni studio, tecnica, si sia evoluto moltissimo nel tuo modo di scrivere. Assolutamente. Adesso due parole proprio per dire, okay, il fumetto, io sono uno sceneggiatore di fumetti, quindi non un disegnatore, e spesso le persone magari non tanto addentro tendono a confondere, dice lo sceneggiatore, cioè il disegnatore fa il fumetto e lo sceneggiatore è quello che amanuense scrive le battute. In realtà no, il fumetto funziona un po' come il cinema, cioè prima c'è un omino, che sono io, che scrive la storia, quindi il soggetto, la storia, e poi la sceneggia, cioè scrive delle pagine scritte in cui si dice: qui c'è un primo piano di Dylan Dog o di Tex che prende la pistola, qui c'è una soggettiva del cattivo che vede, e così via. Quindi c'è una descrizione molto accurata, fatta tutta quanta al computer, di quello che poi verrà disegnato, comprese le battute, compresi i rumori. Quindi c'è un lavoro abbastanza simile a quello di una sceneggiatura esecutiva di un film. Dopodiché il disegnatore lo prende in mano, ci mette del suo, tutto il suo patrimonio artistico di esperienza, di chiari, di scuri, di impostazioni, di inquadrature, e fa la coregia, diciamo, di quello che sarebbe poi il prodotto finito. Esatto. Che è un prodotto veramente a quattro mani. Esatto, quello che quasi sempre sfugge, invece è importantissimo, che la prima segmentazione della storia in singole immagini, singole vignette, è lo sceneggiatore che lo fa. Sì, nel lavoro bonelliano sì. Poi c'è, cioè, il lavoro all'americana è leggermente diverso, sì. Ma noi lavoriamo proprio come se fosse appunto una struttura esecutiva di un film. Io qui c'ho un'inquadratura, qui c'ho un'altra inquadratura, le descrivo tutte quante con termini cinematografici, quindi partendo dal primo piano, piano americano, esatto, campo totale, dall'alto, dal basso, le battute, e perfino i rumori, che nel cinema non ci sono, ovviamente, soc, sbam, è quello che, esatto, sono tutte le... Serve, diciamo, una bella mente visuale anche per chi non disegna. Per, esatto, io infatti ragiono da disegnatore fallito, perché in realtà io sono figlio di un pittore, Tonio, okay, Ruio, che era il decano dei pittori sardi, che purtroppo è mancato qualche anno fa, e ho cominciato da ragazzino ad affrontare, ad avvicinarmi ai fumetti come disegnatore. Certo. E ho sempre disegnato fino a circa i 30 anni, fino a quando non ho cominciato a lavorare, okay, in casa editrice. Poi ho capito che c'era gente che sapeva davvero disegnare e mi sono fermato lì. Però la mia visione nei confronti della storia è sempre da disegnatore. Per cui c'è oltre all'esperienza di regia, c'è sempre un capirsi meglio con i disegnatori, perché parli la stessa lingua. È molto importante questo, e ci sono tanti anche sceneggiatori che sono anche disegnatori, magari non a livello professionale. Lo stesso Roberto Recchioni disegna anche, lo stesso, esatto, Alan Moore disegna anche, sì. Poi in realtà sono bozze, per poi arrivare Frank Miller, che poi tireremo in ballo tra poco, che sia disegnatore che sceneggiatore. Certo, non disegna tutto, perché non tutto è adatto, non tutte le sue storie sono adeguate al suo segno. Certo, poi tra i nostri posso ricordare Luca Enoch di Gea, della Caspita, Bonelli, certo, che è un grandissimo disegnatore e un grandissimo sceneggiatore, esatto, che a volte come sceneggiatore presta la sua opera, Dragonero, altre testate, o a volte fa le sue cose, o a volte si presta solo come disegnatore, quello, esatto, molta invidia. Esatto, esatto. Quindi è un eclettismo notevole. Poi in quel caso Enoch è proprio un disegnatore, è disegnatore professionista e sceneggiatore professionista. È divertente, sarebbe carino sapere, e magari se passerà da Torino glielo chiederemo, se si senta più disegnatore o sceneggiatore. Probabilmente si sente fumettista e basta, perché alla, esatto, fine il lavoro complessivo è raccontare storie per immagini. Esatto, o GIP, insomma, abbiamo tanti esempi, sì, di fumetto autorale italiano, sì, sì, in cui il disegnatore. E poi ricordiamo lo stesso Gianluigi Bonelli, lo stesso Sergio, disegnavano sia pure nel piccolo, facevano le sceneggiature con proprio gli schizzi che vengono conservati religiosamente da tutti i collaboratori, in cui anche con piccoli segni, con piccole cose, però definivano molto bene quella che era poi la vignetta, esatto, che sarebbe. Io ormai praticamente ho smesso, lavoro quasi solo invece di descrizioni. Però magari all'inizio ti facevi comunque delle all'inizio auto... molto di più, poi, okay, sempre di meno, e adesso ho abbandonato del tutto. Ma perché probabilmente lì subentra l'occhio della mente, come l'orecchio, esatto, interiore. Hai già... Abbiamo anche scritto quelle 15-16 mila tavole nella mia vita, quindi, ok, ok, ci siamo abbastanza, quindi direi che esatto, da... esatto. E siamo qui anche per presentare questo nuovo progetto, una miniserie di quattro volumi che si intitola El Noir, e qui tiriamo in ballo subito Frank Miller, così ce lo togliamo di torno. Giusto? Frank Miller è comunque uno dei più importanti autori del fumetto contemporanei, è famoso anche grazie alle componenti cinematografiche, al fatto che Sin City sia diventato film, due film, il fatto che 300 sia diventato film e così via. Nel momento in cui tu racconti una storia noir con degli elementi soprannaturali, con Freghieri che ha una certa sintesi stilistica importante tra i neri e i bianchi, ti portano subito nelle vicinanze di Sin City. Sì, devo dire... Partiamo da un punto di vista, cioè Sin City è comunque una delle fonti di ispirazione per questo lavoro, però non è la fonte principale. Okay. La fonte principale è un vecchio fumetto di Barreiro Jiménez che si chiamava La città, e insieme a quello c'è ovviamente tutta la letteratura di Chandler, la letteratura hard-boiled. Questo fumetto è proprio forse il fumetto più hard-boiled che io abbia, okay, mai scritto, okay, in assoluto. E infatti questa copertina di Davide Fourneau, tra l'altro, ha proprio questo l'uomo in trench in copertina, che, esatto, è un personaggio molto, molto Marlowe. E in realtà c'è stato un lavoro, anche qui appunto parliamo sempre del lavoro preparatorio che c'è su una serie. In questo caso la serie è firmata sia da me che da Giovanni Freghieri, con Davide Fourneau poi le copertine, perché è una serie condotta veramente in due, a quattro mani. Cioè anche dal punto di vista creativo c'è stata una relazione molto stretta tra, okay, me e Giovanni, e si è definito molto bene l'aspetto grafico che avrebbe dovuto avere questa serie, quindi il suo segno. Certo. È una serie che vive su due piani temporali. il nostro piano, diciamo, terreno, quindi è un poliziesco abbastanza normale alla CSI piuttosto che. Ok. E contemporaneamente l'altra parte vive invece in un mondo altro, che è un inferno, io mi piace definirlo una sorta di inferno laico, però un inferno degenerato, in cui vanno a finire, se reincarnano, i morti ammazzati, cioè tutti coloro che hanno una morte violenta. E quindi il trauma di questa morte improvvisa, non voluta, impedisce loro di continuare per la loro strada, quindi arrivare dovunque uno possa arrivare dopo, dopo la fine, rimangono bloccati in questa città di sotto, che è El Noir, questa città enorme in cui uno muore e si ritrova lì, si ritrova in questo mondo assolutamente violento, corrotto, marcio. Sarebbe un girone infernale se ci fosse ancora Satana che comanda, ma non c'è più nessuno che comanda, ci sono delle caste semi-umane, diciamo, che hanno un minimo di controllo sulla città, ma che a loro volta si sono corrotte, quindi un ambiente molto, molto particolare, molto violento, molto crudo, in cui è facile morire di nuovo. Perché tra l'altro, ricordiamo, una delle componenti di coloro che abitano in questa città è l'istinto di sopravvivenza. Ce l'hanno tanto loro quanto ce l'abbiamo noi. Esatto. Perché loro dicono, sono teoricamente immortale, cioè finisco in questa città, posso morire, posso vivere per sempre. E infatti alcuni personaggi di questa città vivono da migliaia di anni. Sì. Uno che è stato un imperatore romano, c'ha giù, c'ha i suoi scagnozzi che lo proteggono, un mafioso, ha ricostruito quel modo di vivere e vive protetto per migliaia di anni. Altri muoiono dopo 24 ore, cioè arrivano lì, li fanno fuori subito per portargli via le scarpe. Certo. E quindi... È la prima volta che ti cimenti con la costruzione di un intero mondo, nel senso, ogni personaggio... tu sei autore e creatore di due personaggi importanti in miniserie, che sono Damian e Cassidy, però quasi sempre il focus delle serie Bonelli è sull'eroe e sul mondo che attraversa. Qui c'è due eroi, ma anche importantissimo l'ambiente. Esatto, quindi è un lavoro simile a quello che si fa quando si scrive un fantasy. Ok. Quindi uno dice, devo descrivere, i fantasy arrivano fino a mettere la mappa, okay. Io non arrivo a tanto, anche perché voglio che questa città rimanga un po' indefinita. Certo, assolutamente. È una città che ha potenzialmente miliardi di abitanti, in realtà ne ha probabilmente solo decine di milioni, perché proprio muoiono molto velocemente, sì, c'è sì, un ricambio sì, molto veloce. Però è una città assolutamente tutta da costruire, che ha milioni di storie potenziali, perché sì, ogni abitante della città è stato ucciso, quindi dietro ogni abitante c'è un delitto, c'è una storia. Tanto potenziale drammatico. Esatto, sto spoilerando un po', ma perché il meccanismo della storia è indipendente dalla storia, okay, cioè dalla storia che uno poi leggerà. Okay. Ma il meccanismo della storia è fondamentalmente questo, lo dico in tre parole, che era proprio l'idea che ho venduto poi alla Bonelli. Ho detto, io ho in mente questa idea, allora ho detto, bellissima, facciamola. Ok. C'è un detective che faceva il detective quando in questa vita è stato ucciso negli anni 70, per una data indefinita, comunque un po' di anni fa. E quasi sempre le persone che sopravvivono a El Noir, cioè in questa città di sotto, riprendono a fare quello che facevano in vita. Okay. Perché è stata talmente tragicamente interrotta la loro vita che chi era appunto uno studente continua a fare, cerca di fare, si arrangia lo studente, chi era, cioè il negozietto si riaprirà in qualche modo un negozietto, anche lì ci sono i soldi, anche lì c'è... Un po' una vita simile, molto più marcia, molto più violenta, ma simile a quella che abbiamo noi, no? È una vita come potrebbe esserci in alcune città sudamericane, piuttosto che anche americane. C'è un po' di inerzia della vita. Esatto. Questa seconda vita è un po' un'inerzia nei confronti della prima. Quindi questo detective vive in questa città e fa anche lì il detective. Ha un rapporto strano, una sorta di modo di comunicare, che qui non racconterò, ma chi è nel fumetto lo leggerà, ma anche questo molto informale, con la figlia, che era bambina quando lui è stato ucciso e adesso è grande, adulta ed è un poliziotto nella Chicago di oggi. Cosa succede? Nel momento in cui la figlia si trova davanti a un caso insolubile, cioè un omicidio assolutamente insolubile, non si trova il colpevole, non ci sono tracce di cellulari, non ci sono impronte digitali, non c'è DNA, non c'è niente, come facciamo a risolverlo? Lei ha un modo di risolverlo che nessun altro ha, cioè incarica il padre di cercare la vittima. Okay. Quindi trovando la vittima gli racconterà chi è l'assassino. Questo in teoria, in pratica non è mai così facile. Certo, certo, perché in ogni buon noir le cose sono molto più complicate. Esatto, la soluzione di questo giallo, diciamo, è la storia tipo, ed è la storia di questo romanzo, della storia tipo di una delle milioni di storie di El Noir, in cui verrà coinvolto questo detective che si chiama Melvin Saul, il nome non è casuale, e tutti chiamano Mel. Ok, assolutamente. E chissà se a El Noir c'è un treno sotterraneo, un po' un downtown train, come il pezzo che stiamo per mandare. Abbiamo fatto una playlist insieme, questa volta abbiamo ragionato sui pezzi io e Pasquale e partiamo con la prima delle canzoni, andiamo a tingere a un autore oscuro quasi per eccellenza, che è Tom Waits, e un pezzo che si chiama appunto Downtown Train. Upon the wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Fulvio Gatti che è sempre molto contento. Se comincio a parlare di me in terza persona posso dare le testate contro la parete e basta. Sono sempre molto contento di questa sigla, ma oggi la band di Mos Eisley dovrebbe probabilmente suonare un blues lento e probabilmente ce l'avevano in repertorio, perché figuriamoci nella taverna di Mos Eisley con tutta quella gentaglia, se non gentaglia galattica, se non gli chiedevano qualche lento, qualche pezzo un po' più oscuro. Avremmo bisogno di un pezzo un po' più lento perché, come è stato Downtown Train di Tom Waits, sempre splendida, stiamo raccontando di El Noir, che è una miniserie a fumetti di Sergio Bonelli editore, con l'ideatore e sceneggiatore Pasquale Ruiu, che è un piacere avere qui con noi. Ciao di nuovo, sempre senza voce. No, beh, si sente, nessun problema, e continuo a dire che è una voce di gran lunga migliore della mia, quindi per fortuna ho avuto questo po' di raffreddore, così non faccio troppo la figura del... di quello con la voce non sufficientemente radiofonica. El Noir ha questa copertina molto bella di Davide Fourneau, in cui c'è quest'uomo in trench. Tu hai lavorato un po', secondo me, sull'immaginario dell'uomo in trench, del detective in trench, chandleriano, così. Il fatto che sia una realtà fantastica, eccetera, ti ha permesso di lavorare un po' sugli archetipi. Questo è un archetipo. Esatto, volevo proprio lavorare sulle icone. Okay. E mi piaceva il fatto che questo detective, cioè ripeto, El Noir è probabilmente la storia più hard-boiled che io abbia mai scritto. Di solito quando si definisce un personaggio a fumetti, mi è capitato nelle mie miniserie precedenti, tanto lavoro è fatto nella definizione del personaggio, cioè come veste, come il personaggio deve essere riconoscibile. Siccome soprattutto nei fumetti seriali verrà disegnato da più disegnatori, facciamo l'esempio di Dylan Dog. Okay. Dylan Dog ha facce diverse, relativamente diverse, anche una struttura fisica diversa, appena diverso, non è un'altra, certo, persona, ma a seconda di chi lo disegna. Cioè Freghieri lo disegna in un modo, Nicola Mari lo disegna in un altro, Diso, che è il copertinista, lo disegna in un altro modo ancora. Però è sempre Dylan Dog ed è sempre riconoscibile, perché ha prima un vestito che gli garantisce riconoscibilità, alcuni tratti fisici, somatici che rimangono. Esatto. Io mi sono posto un po' lo stesso problema per Damian prima e poi per Cassidy. Quindi Damian non volevamo che indossasse sempre lo stesso vestito, però l'abbiamo lavorato per macchie di colore, cioè avrebbe sempre avuto una giacca, una camicia scura, dei pantaloni chiari. Essendo biondo avevamo questo chiaro, scuro, chiaro, che lo definiva. Poi, giusto, perché ti sei posto la questione che il lettore lo deve riconoscere. No, ma anche l'abbigliamento sempre uguale ormai non è più percepito come realistico. Esatto. Quindi il lettore lo deve riconoscere e devi trovare altri modi che non l'abbigliamento. Un modo, diciamo, tutti noi abbiamo un nostro modo di vestire, per cui il modo di vestire caratteristico del personaggio ci sta. Lo stesso Tex veste in realtà in due o tre modi diversi, perché quando è nel villaggio indiano veste in un modo, quando è un ranger veste in un altro, quando è nelle grandi diciamo pianure del nord con le nevi eccetera veste in un altro, c'ha il giaccone, cioè, ci sono piccoli cambiamenti all'interno di un personaggio che è sempre lui. Però appunto il problema ce lo si pone. Nel caso di Annuare, essendo una storia a disegnatore unico, il problema si poneva meno dal punto di vista della definizione di come sarebbe stato, perché El Noir, il personaggio è quello che disegna Freghieri, o al limite quello che disegna Davide Furno in copertina. Okay. Ed è un personaggio vagamente ispirato a Viggo Mortensen, la diciamo qui questo piccolo anticipo. Anche se molto vaga l'ispirazione. Sì. Non tanto invece quindi a Chandler, non tanto alla... Ma questo personaggio volevo proprio che avesse il trench, che avesse il cappello borsalino, cioè che fosse molto iconico come detective, proprio perché il mondo in cui vive è assolutamente astruso. Esatto. Per cui non è la Chicago, non è, ma è proprio questo mondo particolare in cui lo doveva essere riconoscibile come il detective. Certo. Allora vestirlo in un modo particolare, quando già è una città dove sono tutti strani, avrebbe portato me stesso come autore prima, poi anche il lettore a uno straniamento, cioè non volevo una persona vestita in modo strano o che avesse un abbigliamento, volevo un abbigliamento che fosse immediatamente riconoscibile, cioè è quel personaggio lì, è quell'icona, è quell'archetipo particolare, che però usa le sue competenze, quali che siano, insomma, le sue particolari, i suoi cazzotti, le sue cose, però per combattere un mondo che non è tanto normale, che non gli appartiene. E quindi il divertimento era questo contrasto. E tra classicismo e modernità, la scelta di una figlia invece che un figlio nella parte del presente, sentivi un personaggio femminile più forte per contrasto, o anche per via del fatto che una figlia, quindi legame padre-figlia, cioè, ha narrativamente anche dei precedenti? Io volevo proprio un legame padre-figlia, volevo un personaggio femminile. Okay. Io ho sempre spesso lavorato con personaggi maschili, però con personaggi femminili molto forti. Okay. Cioè riesco a infilare dei personaggi femminili forti persino in Tex, che non è impresa facile. Ok. Però mi piaceva che fosse una coprotagonista, perché poi Casey Saul, che è la figlia di Melvin Saul, che adesso è una ragazza che ha 35 anni, quindi una donna, una poliziotta, una tosta, un ispettore, è tanto protagonista quanto lo è Melvin, perché metà della storia si svolge nel nostro mondo. Quindi lei è una detective di quegli attributi, come viene definita anche nella storia, e che si trova a che fare con questi casi spesso impossibili, che parte e va a risolvere questi casi con metodi tradizionali, mentre il padre ci lavora dall'altra parte con metodi molto meno tradizionali. Di solito nel mio ideale queste due cose dovrebbero convergere, cioè lei non è che si serve del padre e il padre le risolve il caso e le dà la frittata fatta, no, lavorano tutte e due e ognuno dei due aggiunge un suo piccolo tassello, uno naturale, l'altro soprannaturale, alla soluzione del caso. Ok, in questo caso è una sorta di mega... il primo albo è dei 98 pagine... Bonelli, sono 96, quattro albi. Ok, però sarebbe di per sé è come se fosse un unico grande romanzo a fumetti di circa 400 pagine. Qui diciamo riveliamo la prima origine di questa storia, è stata come romanzo grafico. Okay. Poi si è deciso, siccome era una storia, come è successo per altre, molto voluminosa, cioè appunto erano 94x4, quindi erano tante tavole, e veniva un tomo estremamente importante, allora abbiamo deciso di dividerlo in quattro albi. Poi magari in futuro ci sarà una ristampa in albo unico, ma diciamo viene vissuta come una mini miniserie, una collana di mini miniserie in cui che vede anche altri autori come Mignacco, come Manfredi, come la stessa Barbato, che arriverà dopo, la cui storia arriverà probabilmente dopo quella di El Noir. È un modo di raccontare al lettore una storia molto autorale, quindi ha disegnatore unico e sceneggiatore unico. Okay. Quindi un altro modo, anche perché rapportarsi col disegnatore vuol dire costruire insieme, veramente, come è successo a me e Giovanni, la storia nella sua parte grafica, nella sua parte letteraria, scambiandosi delle idee. E quindi un lavoro che secondo me ha una marcia in più anche dal punto di vista della realizzazione, che è una cosa che spero che arriverà anche al lettore, cioè si deve sentire che ci abbiamo un po' passato le notti su questa cosa. Certo, ma assolutamente è un bel modo con cui Sergio Benedettore, come factory di storie, per sfondare un po', andare oltre un po' dei suoi limiti. Per esempio, c'è sempre stata poca continuity perché c'era questa idea di poter scambiare gli albi, quantomeno nelle serie un po' più classiche. Erano ragioni purtroppo di pratiche. Sì, no, nelle serie principali c'è una continuity sempre molto blanda, esiste, però è una continuity molto... Proprio per una serie di ragioni, perché ci sono dei tempi di produzione, un albo può rimanere indietro, possono essere scambiati, eccetera. In questo caso, e quello è inevitabile, può essere aggirato fino a un certo punto, forse Orfani ha fatto una continuity stretta, perché in realtà è stata realizzata per intero, mi risulta, prima di uscire in edicola. Sì, è realizzata stagione per stagione, quindi ogni stagione ha una sua continuity. Cassidy stesso, che non è una serie, ma una continuity stretta, cioè su 18 episodi ogni episodio cominciava da dove finiva quello precedente. Esatto. Però è stata una impresa, cioè proprio con la goccia di sudore, perché ogni volta che un albo, ovviamente gli albi devono essere disegnati e consegnati, quindi basta che un disegnatore, anche per motivi suoi, una malattia, qualunque cosa, si fermi e rischia di far saltare tutta la serie. Quindi questo vuol dire partire molto in anticipo sulla produzione e diciamo tenere le dita incrociate fino all'ultimo okay. anno. Lo sceneggiatore in questo caso è il nocchiero di questa nave che ha oneri e onori. Esatto, diciamo lavoriamo e stiamo un po' dietro a tutti quanti. Io ho sempre avuto la fortuna da una parte di essere veloce come sceneggiatore, per cui normalmente quando il primo numero usciva in edicola avevo già finito di scrivere tutta la serie. Questo è successo sia per Damian che per Cassidy, quindi 18 episodi, partendo 2 anni prima io ho già abbondantemente chiuso la parte di sceneggiatura, quindi di scrittura delle serie, e quindi potevo seguire poi i disegnatori nel loro lavoro. A maggior ragione questo, che erano 4 episodi, però in questo caso abbiamo lavorato proprio di pari passo, cioè man mano che Giovanni andava avanti io poi gli consegnavo i lavori, e quindi l'ho visto proprio nascere e crescere questa serie. Hai potuto ritrovare un po' quell'immediatezza della nascita del fumetto. Tu che l'hai conosciuto di persona probabilmente puoi anche confermarmi se è vero che Sclavi tendeva molto a andare di pari passo sceneggiatura e disegno, perché tendeva a farsi anche influenzare nella scrittura da ciò che vedeva disegnato. Sì, sì, certo. Quello succede anche spesso, perché avendo a che fare con molti disegnatori, uno magari scrive 20 tavole, 20 pagine, e queste pagine sceneggiate vengono poi disegnate e di conseguenza poi tornano indietro, le si rivede, si fa tutto un lavoro anche col disegnatore. Però non sempre questo può essere a volte un limite, perché certi tipi di storie magari più incastrate, più gialle richiedono un meccanismo molto preciso. Di un meccanismo preciso, e invece in questo caso, avendo stesso disegnatore, un unico lungo arco narrativo che poi un'unica storia, avete potuto giocare anche molto più sulle peculiarità del fumetto. Certo, in questo caso appunto si era definito questo doppio binario, da un lato in linea chiara, quindi la linea classica per chi conosce Giovanni Freghieri, ha questo segno molto sensuale, molto chiaro, molto facilmente leggibile, molto bello anche esteticamente, per tutta la parte, diciamo, nella Chicago di oggi. E questo tratto più oscuro che al punto alcuni definiranno milleriano, ma quelli che non conoscono il Freghieri degli anni 70, che invece ho avuto modo di leggere il Freghieri di Sorro, del Monello, dell'Intrepido, che usava questo segno 20 anni prima di quando l'abbia usato Miller. Ok. Quindi in realtà lui dice, sì, io ti faccio questo segno, però tutti quanti lo prenderanno poi per un segno alla Miller, o alla... insomma, c'è tutta una generazione di autori che hanno cominciato a disegnare in questo modo dopo Miller, quando invece Freghieri, che dimostra in realtà 40 anni, ma ne ha più di 60, disegnava molti anni prima che questo segno fosse sdoganato in qualche modo. Che era un segno che poi si rifaceva a Kenneth, si rifaceva da parte anche dello stesso Miller, oltre che di Freghieri, ad autori classici degli anni 40 e 50. Un discorso di pieni vuoti, di neri e bianchi. Esatto, molto selvaggio, molto crudo, molto... È una storia anche molto violenta, il noir. Direi cui... anche con anche gli argentini, un po', questo uso del nero, dei... Esatto, poi, che veramente tira fuori dal bianco e nero quella sorta di colore cupo, un colore mentale alla fine, che era proprio quel valore aggiunto che volevamo dare alla storia. Quindi uno si trova infilato dentro in questa città piovosa, in queste atmosfere cupissime, e in queste situazioni molto violente, molto, molto stressanti, perché Noale è una città stressante, comunque uno dice devo sopravvivere, ogni volta, esatto, che esco di casa mi possono fare la pelle, esatto, e che poi quello magari oggi purtroppo si trovano a vivere certi abitanti delle, sì, città messicane, esatto, o colombiane o venezuelane o di altri posti, insomma. E questa cosa volevamo che venisse fuori in un modo potente, e questo modo l'ha trovato Giovanni, dandomi appunto già nei primi studi, nelle prime cose preparatorie, queste due soluzioni che poi abbiamo ottenuto fino alla fine della storia, che secondo me sono il suo apporto forte e assolutamente memorabile. Molto molto suggestivo e molto molto efficace anche dal punto di vista di influenzare il mood della narrazione, nel senso non riusciamo a pensare Dampir, e su questo poi ritorniamo perché tu hai scritto anche Dampir, Dampir slegato da un certo disegno molto dark con molte ombre non sarebbe la stessa cosa. Esatto. Cioè, ogni quindi personaggio richiede, anche se poi ogni disegnatore ci mette del suo, certo, però richiede comunque un'atmosfera generale, così come per disegnarlo come per scriverlo. Esatto. Tex stesso, una cosa che diceva Sergio Monelli sempre, cioè, okay, Tex è come una musica, dovete pensare nel momento in cui questa musica vi suona in testa, lo saprete disegnare, lo saprete scrivere, se no farete un western che non è Tex. Okay. E quindi c'è questo modo, questa atmosfera, questo mood appunto, che su El Noir è doppio, sono proprio due binari, esatto, diversi, e che ci siamo impegnati a seguire, perché poi se poni le basi di un mondo come questo qui, poi lo devi rispettare, quindi ti dai delle regole, e nel primo numero si leggerà, ci sono molte regole, il protagonista dice io conosco tutte le regole di questo, sì, posto, e adesso ve le spiego, un po' saranno spiegate all'inizio, un po', adesso non facciamo lo spiegone, no, infatti. Però nel corso della storia il lettore si troverà a imparare tutte le regole che servono per, sì, sopravvivere in questo mondo qua, certo, e sono le stesse regole che si è dato l'autore, cioè il sottoscritto, per impostare questo mondo, cioè non è una roba che tu puoi fare qualunque cosa, esatto, tu stabilisci è così, è fatto così, succedono queste cose, le dinamiche sono quelle e poi le devi rispettare, esatto, proprio per dare anche una forte, come dire, realismo al modo come vivrei io in questo mondo che è assolutamente irreale, esatto, ma in modo realistico. E la gente, infatti la storia non è una storia horror dove succede qualunque cosa, cioè non arrivano i carri volanti, non arrivano, è una storia molto nera, realistica, solo in un mondo dove ogni tanto può succedere qualcosa di molto crudo, molto crudele, esatto, e che è un mondo altro che non è il nostro, ma, esatto, è molto vicino al nostro. Esatto, ma quel qualcosa sta all'interno di una coerenza dell'universo generale, sì, e che permette la tensione, permette il conflitto, permette tutta una serie di cose che sennò, se qualsiasi cosa può succedere in una storia, non succede niente. E il buon fantasy, questo è per Andrea Malabai, l'ospite della scorsa settimana, che diceva il fantasy no è... No, il buon fantasy è qualcosa di molto complesso, Tolkien insegna, Moorcock in tempi più moderni insegna, per la mia sensibilità ancora meglio, che un buon universo fantasy è qualcosa di totalmente coerente, in cui magari può succedere l'improbabile, ma quell'improbabile è all'interno di determinate regole. Assolutamente, se no, se succede qualunque cosa ci si annoia. Esatto. Cioè, se anche tutto una può storia succedere spaziale, cioè, se mi dicono vabbè, succede qualunque, arriva qua chiunque, no. Cioè, esatto, una storia spaziale, dici, io do la regola di questo tipo di fantascienza, di questo tipo di fantasy, e poi le seguo. Esatto. E allora il lettore dice, ma mi importa in quel mondo, questo mondo lo riconosco, mi ci ritrovo, mi trovo a casa, so dove sono le porte, dove esatto, e allora ti seguo nella storia, se no mi perdo e non mi interessa più. Esatto. E parlando di musica, parlava questa bellissima citazione di Sergio Bonelli che parla di Tex come una musica, noi abbiamo anche una scaletta di canzoni e proseguiamo con la prossima. E anche qui, sempre tra musicisti oscuri un po' maledetti, siamo andati a cercare Johnny Cash, ai tempi in cui aveva cantato un blues dalla prigione di Folsom, Folsom Prison Blues. I don't know when I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Sono solo nuvolette, oggi naviga tra i reami del noir ed è un fantastico dark, che è quello raccontato in El Noir dal nostro ospite, sceneggiatore Pasquale Ruiu. No, ciao a tutti, okay. Ripetiamo terza volta senza terza voce, volta ma ci riproviamo. No, vabbè... Stiamo chiacchierando in generale di El Noir, di questo progetto, ma a me piacerebbe chiacchierare con te di questa figura che capita a tutti i momenti di citare, di riferimento per il fumetto italiano, che è stato Sergio Bonelli. Tu l'hai conosciuto anche piuttosto bene? Sì, diciamo, ho collaborato con lui per 20 anni. Ok. Devo dire una figura particolare, perché da una parte, e mi piace proprio ricordarlo, un imprenditore illuminato, okay. Un imprenditore che sapeva selezionare i talenti, tenerseli vicini, coccolarli, trattarli bene. Cioè io arrivavo da altre esperienze lavorative e mi sono trovato in un ambiente come era la Bonelli, che era veramente, aveva proprio una marcia in più da questo punto di vista. Okay. Ricordiamo anche una cosa che mi piace ricordare sempre, che grazie a Sergio, ma grazie anche a altri, i fumetti italiani sono un'eccellenza italiana sempre spesso misconosciuta. Cioè ricordiamo che la Marvel americana, l'Uomo Ragno, vende 50.000 copie. Tex sono 60 anni che vende 500.000 copie al mese. Esatto. Tra inedito, ristampe, albi speciali. E siamo secondi solo al Giappone. In parallelo a 360 milioni di abitanti negli Stati Uniti e 60 milioni esatto. di abitanti in Italia. Cioè facciamo anche sì. la proporzione tra numero di abitanti. E quindi, ripeto, si parla sempre degli americani, perché loro hanno ovviamente il cinema, quindi ormai il fumetto è diventato una scusa per fare il film esatto. negli Stati Uniti. Ma in Italia abbiamo un'eccellenza mondiale, seconda solo al Giappone, ripeto, che viene puntualmente misconosciuta. Per cui spesso capita di dire, vabbè sì, sono fumetti, sono così. Bonelli, ecco, per tornare a Sergio Bonelli, non sopportava che uno dicesse in sua presenza, ma tanto è solo un fumetto. Come solo un fumetto? Cioè noi lo facciamo, e lo faceva con una passione che gli arrivava da ragazzino, che gli arrivava dal padre, da Gianluigi, che era un grande autore di fumetti, l'autore di Tex, ricordiamo. E lui stesso è stato autore, Sergio Bonelli, come Guido Nolitta, di personaggi come Zagor, di personaggi come Mister No, che hanno attraversato proprio i decenni. Esatto. Zagor stesso oggi ha vende tantissimo e ha un pool proprio di appassionati esatto. duri e puri che lo seguono. E che ha pochi esempi al mondo, perché anche Zagor comunque ha 40-45 esatto. anni di vita. Insomma. E Sergio aveva questo grande entusiasmo che ti trasmetteva, perché era una persona di grandi anche arrabbiature, molto umorale, però anche molto amico. Non ricordo questi pranzi in cui anche si discuteva dei progetti, quindi prima di Damian, poi anche di Cassidy, appunto si diceva, lui mi diceva, Cassidy, fallo più cattivo, perché ricordiamo la Bonelli, quindi l'album bonelliano, e dovrebbe sempre nascere come album per tutti. Spesso ci chiedono, ma perché non insistete col linguaggio più volgare, con le situazioni più crude, col sesso? No, se io scrivo per la Sergio Bonelli Editore, so che quest'album può andare in mano a un ragazzino di 12 anni come a un uomo di 60. Di conseguenza devo, come dire, graduare un pochino il mio linguaggio, perché era proprio la filosofia della casa editrice. Se no, certo. scrivo per la Vertigo, scrivo per gli indipendenti, me lo scrivo, adesso faccio altre cose, insomma. Sì. Quindi questa cosa per me aveva un grosso valore. Cioè Sergio, devi sempre molto avere molto rispetto per il lettore. Questo lettore può essere un uomo, una donna, un ragazzino, un adulto. Tu gli devi avere un contenuto che lui può godere, ovviamente a livelli diversi. Se un adulto godrà certe cose, certe citazioni, certi rimandi, se un ragazzino si goderà la storia, ma comunque deve essere godibile da tutti e due. E ricordo appunto questi pranzi, queste cose. Lui era uno che ti dava con poche, ci azzeccava sempre. Che devo dire, anche dal punto di vista di Damian, la definizione anche del personaggio, cioè lui mi aveva detto due parole, diceva: ma tu sei mai stato in Costa Azzurra? Vai a vedere questi ragazzoni che passano sulle spiagge, questi francesi con questo fisico particolare, con questo modo un po', questo Andy. E dice, e dovrebbe essere uno così, ed è diventato effettivamente uno così. Poi su Cassidy, che è nata proprio Cassidy, per lui era entusiasmante perché si viveva negli anni 70, con la musica degli anni 70, con quel tipo di mondo particolare che erano gli Stati Uniti degli anni 70, che era anche un po', diciamo, quello che sarebbe diventato il mondo di Tex. Cioè Cassidy vive negli stessi paesi, negli stessi posti, stessi deserti che 100 anni prima sono stati occupati, diciamo, da Tex, in cui ha agito Tex. Ed era divertente questo doppio contesto, questa rilettura di questi personaggi. E lui per questo si entusiasmava, mi dava materiale per le storie. Se poi c'erano delle cose da fare all'estero, piuttosto che... Ho avuto sempre un sacco di aiuto e un sacco di materiali. Ti prestava dei volumi costosissimi, io ho paura a portarmelo a casa per poi restituirglielo. E devo dire, questa cosa veramente manca a tutti, Sergio. E dal punto di vista, tornando, hai citato i Cassidy, hai citato gli anni 70 relativi ai luoghi di Tex, ma relativi forse anche a un'epoca in cui c'era un'oscurità, stava finendo un sogno, gli anni 60, il flower power eccetera, e Sergio, che magari li aveva anche vissuti quegli anni, e forse era lui che ti pungolava a rendere più cinico e disilluso il personaggio. Sì, proprio nasceva da questo personaggio che era reduce comunque dal Vietnam, reduce da tutta una serie di esperienze, quindi un vero antieroe. Perché Cassidy, ricordiamo, è proprio il figlio cattivo, il figlio degenere tra i miei tre figli. Okay. Ed è un personaggio comunque negativo, pur avendo una sua scala di valori, cioè proprio un rapinatore, un assassino, come quello era. Ed era veramente molto disilluso, perché per lui tutti i suoi punti di riferimento, quindi la famiglia, il lavoro, la patria, è tutto crollato dopo il Vietnam. E si è trovato contro tutta una serie di persone, di poteri forti, gli hanno portato via la moglie, gli hanno portato via i figli. E quindi il personaggio che ha perso tutto, e di conseguenza scatena una sua forma di ribellione che non è per niente pacifica, ma una ribellione contro la società vissuta da rapinatori. Cioè, avete fatto così, allora io vi porto via i soldi. Per primi porta via i soldi della CIA, quelli che la CIA usava per comprare, diciamo, c'era una cosa che non si è mai chiarita del tutto, ma fondamentalmente c'erano partite di droga comprate dalla CIA e rivendute in America per pagarsi le operazioni oscure. E il fumetto vive anche andando a fondo a questa cosa che non è mai stata provata del tutto, ma che ormai è abbastanza, diciamo, storico, parte della storia. E da lì va avanti e, diciamo, continua a fare il rapinatore. Poi è stato divertente appunto anche definirlo questo personaggio, perché di anni 70 ha poco, ma perché lui negli anni 70 c'ha 40 anni. Sì. Quindi in realtà Cassidy è un uomo degli anni 60 che si trova ad agire nei 70. Okay. Quindi anche il vestito, si parlava prima del modo in cui vestono. Sì. Ci siamo posti qui per tornare a tutto il lavoro che c'è prima, ahimè, le notti. Come veste Cassidy rispetto a Damian? Cassidy veste come un uomo degli anni 60, quindi con la sua giacchetta attillata, scura, con la sua cravatta, con il suo fermacravatta, però agisce negli anni 70, da quarantenne degli anni 70. Sì. E quindi questo è la stessa. Quindi è a suo modo fuori dal suo contesto. Fuori dal suo stesso contesto. È così come lo è fuori, perché è un fuorilegge. Esatto. Quindi allo stesso tempo lo è fuori anche proprio fisicamente. Gli altri vestono quei pantaloni a zampa. Esatto. E lui invece è, diciamo, quello che sarebbe stato un uomo elegante poi 30 anni dopo o 10 anni prima. Esatto. Narrativamente è fortissimo questa cosa di calare un personaggio fuori contesto in un ambiente ostile. E allora come reagisce la sua stessa reazione all'ambiente ostile? E sono tutti questi. Il conflitto, in fondo noi ci poniamo sempre il problema del conflitto. E questo conflitto deve nascere anche visivamente, prima ancora che dalle azioni del personaggio. Ed era stato qualcosa comunque in cui la Sergio Bonelli editore osava con questa serie, un personaggio così tanto negativo, forse non c'era stato? Sì, c'era stato Greystone, che era un cattivo, però in un contesto fantascientifico un po'... E poi è più o meno contemporaneo. Cioè, sono più o meno contemporanei, nel senso, erano due storie in cui la Bonelli si spingeva un po' più in là. È stato proprio un periodo in cui c'era stata una nuova sperimentazione di un antieroe, perché ripeto, Cassidy, poi lo stesso Bonelli mi diceva, cioè è definito, non è un buono che per caso si trova a fare il cattivo, è un cattivo vero, cioè uno che non si fa problemi a ammazzare la gente, pur avendo appunto una sua scala di valori, non è un carognone assoluto, ma è comunque dall'altra parte. E così come lo è Greystone per motivi diversi. Greystone è uno che vuole dominare il mondo, in questo contesto che Serra dice non è steampunk, perché è vero, è molto più legato alla, alle conoscenze storiche, ma è una sorta di quasi fantascienza verniana, se esatto, della costruzione di un universo altro. Verne. Ne abbiamo esatto. anche parlato un po' con Sergio Giardo su queste frequenze, che era stato uno dei disegnatori, quindi c'era stata questa ricerca dei di fatti proprio di tecnologie che esistevano all'epoca, ma che sono rielaborate in una maniera molto avventurosa, molto e anche lì siamo sempre al punto dell'universo narrativo coerente, esatto, una coerenza totale. Ti ricordi però l'accoglienza di Cassidy come personaggio così negativo da parte del... Ma in realtà Cassidy è stato, diciamo, rispetto a Damian, le mie due serie, Damian è stato un successo riconosciuto. Okay. Cassidy è stato meno successo dal punto di vista di Damian, però aveva un venduto che se ce l'avesse oggi sarebbe considerato un successone, okay, non un successo, okay. Perché purtroppo il calo generale c'è stato un pochino nei fumetti. Dopodiché però devo dire che pur avendo ovviamente venduto il suo onesto numero di copie, cioè un numero di copie che adesso non starò qui a dire, ma se fosse un libro o se fosse un fumetto di oggi sarebbe nelle classifiche. Questo va sempre ricordato che come l'industria del fumetto, che poi industria artigianale, chiamala come vuoi, però di per sé come numeri che stava stando in piedi, anzi artigianale è un po' brutto detto così, però comunque come realtà produttiva bagna il naso come tirature a tante editorie, sì, di varie. Assolutamente, quindi parliamo sempre di due serie che erano nella fascia alta del venduto, esatto. Bonelli. Però devo dire Cassidy, più ancora di Damian, pur avendo venduto un pochino di meno, è un personaggio che mi vengono, per cui i lettori mi fermano ancora adesso. Okay. Adesso a Lucca, cioè ogni giorno ne avevo 10 che mi fermavano, 5, 10, 20. Ma Cassidy, no, perché hai fatto tante cose, però quello quando è che lo rifate? Ho detto, no, è morto, alla fine della sera è morto. No, ma tanto poi in qualche modo lo fate tornare. C'è veramente una passione per questo personaggio che... E anche forse perché è stata un'opera più matura rispetto a Damian, cioè venivo già dall'esperienza di Damian, per questa è una serie molto compatta, molto anche narrativamente molto studiata e con molta esperienza alle spalle Damian non avevo, quindi è rimasta nel cuore dei lettori, una cosa che mi stupisce sempre perché ormai sono tanti anni che la serie è chiusa e se la ricordano ancora tutti, mi portano ancora, c'è gente che lo riscopre oggi, infatti ho messo uno stato su Facebook che diceva ho letto un Cassidy, dice, l'altro giorno sto recuperando tutti gli, perché è bellissimo, sto recuperando tutti i numeri arretrati. Ecco, sul noir non fate così, compratelo oggi, che esatto. è in edicola. Esatto. Beh, sulla lunga vita di un personaggio, di una storia, per lo sceneggiatore penso che non ci sia soddisfazione migliore. Assolutamente. Un'altra cosa che mi hanno detto bellissima è stato un mio lettore che su Facebook fa lunga seconda vita a Melvin Soul. Trovo che sia un complimento bellissimo. Fantastico, fantastico. E comunque il Melvin Soul è in questo universo oscuro, e al bordo della città, come la Darkness in the Edge of Town di Bruce Springsteen. Sceglievamo i pezzi e come non ripescare il boss. E quindi Alessandro, come sempre il ninja della regia, vai col prossimo pezzo. Darkness on the edge of town. so born into a good life. Other folks, they just get it anyway, anyhow. Hey, well, I lost my faith when I lost my wife. Well, those things don't seem to matter much to me now. 'Cause tonight I'll be on my hell, 'cause I can't stop. Solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. E dall'oscurità ai margini della città torniamo a una città molto oscura che è il noir, a Pasquale Ruiu, l'ospite di oggi, lo sceneggiatore, e al fatto che io ho sempre pensato che tu avessi visto dalle didascalie di Demian una verve letteraria ricca, perché mettere delle didascalie in un fumetto può essere troppo facile, invece metterci delle buone didascalie che sono delle voci fuori campo è un altro paio di maniche. E era qualcosa che mi aveva molto colpito nel primo, il primo numero di Demian, c'era proprio una narrazione ricca che ti dava qualcosa in più, questa prosa ricca, non forzata, però comunque ti dava delle emozioni, un certo tipo di emozioni, ti conduceva attraverso questo viaggio. Adesso vediamo se la memoria mi inganna, ma c'era comunque un viaggio in treno nel primo numero di... Sì, un personaggio che praticamente indagava, esatto, sulle origini del personaggio Demian, che poi appare soltanto, esatto, nelle ultime c'era vignette. Questa costruzione da lontano del personaggio, questa cosa molto particolare, che sicuramente questa tecnica era qualcosa che era molto voluta per dare risalto a questo personaggio. Certo. Ma tu, Pasquale Ruiu, sei anche scrittore e hai un romanzo in uscita entro qualche mese. Sì, vuoi parlarcene? Diciamo, la mia esperienza di scrittore, come spesso succede per i colleghi, diciamo, per chi lavora nei fumetti, era limitata spesso per questioni proprio di tempo a racconti o a collaborazioni. E qualche anno fa, diciamo, ho collaborato con Massimo Carlotto e Colomba Rossi per una collana che si chiamava Sabotage, mm-hmm, con un racconto, all'epoca appunto ricordo, Sabotage è una collana che vive molto sul noir legato alla realtà, cioè ai problemi reali. Okay. Che sono, possono essere appunto i rifiuti tossici, possono essere la mafia, la camorra, sì, possono essere, sì, quelli che sono i problemi dell'Italia di oggi. E io ho fatto proprio un racconto sullo smaltimento dei rifiuti tossici in Sardegna, mm-hmm, legato a fatti reali, poi rielaborati ovviamente con, certo, fantasia, che aveva avuto un buon riscontro, era uscito sul Manifesto all'epoca, mm-hmm, nell'ambito di questa collana Sabotage, per cui si era parlato proprio con Massimo Carlotto, dice perché non provi per noi a fare, abbiamo questa collana di romanzi noir, mm-hmm, che conta appunto autori anche molto importanti come Carrino, come Pulici, che adesso cominciano a farsi conoscere sia in Italia che all'estero. E io ho detto subito sì, ovviamente. Sì, sì, va bene, non c'è problema. Dopodiché ci ho messo quasi 3 anni a riuscire a finire un romanzo, che è quello che uscirà adesso, il cui titolo provvisorio, perché ancora non abbiamo il titolo definitivo, è Un caso come gli altri, e che dovrebbe uscire adesso a fine febbraio nelle librerie appunto per la Edizioni EO, che è una casa editrice molto, diciamo, fortunata, perché in questo periodo ha un'autrice che ha vinto il premio Nobel, perché, esatto, ha la Ferrante, perché ha lo stesso Carlotto. C'è una casa editrice che ha un suo, in cui sono molto fiero di No, poi è una casa editrice che in un ambito editoriale sempre più frammentato, cali di vendita, eccetera, e barra O, intanto ha portato in Italia determinati autori di un certo tipo, e poi è anche la casa di Massimo Carlotto, di un certo noir italiano tutt'altro che risibile nel raccontare la realtà, nell'essere stilisticamente interessante. Assolutamente. E infatti la mia storia, che è una storia che poi tratta di diciamo, una dinastia di 'ndrangheta nel nord Italia, quindi che dal sud Italia arriva nel nord Italia, e la sua storia nell'arco di 20 anni, ispirata non a una situazione reale ma a un insieme di situazioni reali, come spesso succede, insomma, quindi molto ancorata alla realtà, pur all'interno di una storia di finzione, è piaciuta subito, e dopodiché appunto c'è stato uno sviluppo, un correggere, un rivedere, come spesso succede per i libri, quindi un lavoro abbastanza lungo fatto, diciamo, di pari passo con il noir, di pari passo con altri progetti bonnelliani, che spero, insomma, mi ha dato grandi soddisfazioni a farlo, spero darà soddisfazioni anche in libreria. Ti è mancato il rapporto, l'interscambio col disegnatore in questo caso? E sono due modi diversi, perché mi è mancato il vedere le tavole, perché una delle più grandi soddisfazioni segrete dello sceneggiatore è vedere quando il lavoro che tu hai pensato, come del regista quando vedi, o dello sceneggiatore cinematografico quando poi vedi il film finito, magari alcune cose non ti piacciono, ma le cose che ti piacciono talmente tanto che dici vale proprio la pena fare questo lavoro. In questo caso quello che avevo era quello che scrivevo io, quindi quello che mi tornava indietro. Io poi sono uno abbastanza lento, pistino, che rivedo ogni frase, quello, quindi effettivamente è un altro tipo di lavoro. Uno sceneggiatore normalmente, uno dice, fai l'artista, fai il creativo, quindi lavori di notte, non è vero, io lavoro abbastanza in maniera da impiegato, diciamo, dalle 10 di mattina alle 7 di sera, poi faccio le mie 8 ore con la pausa pranzo. Invece per il libro non funziona così, cioè vai proprio in un'immersione totale, come è successo anche per il noir, che a suo modo è anche un romanzo, quindi vai in un'immersione talmente profonda che ti trovi a lavorare alle 4 di mattina. Perché a un certo punto ci sono pezzi di storie che hanno bisogno di essere raccontati. Sì, perché non è più il lavoro di tutti i giorni, è proprio una cosa che ti nasce, che ti prende, che ti azzanna. Esatto, pezzi di storie che vogliono essere raccontati. E quindi devi assolutamente, nel momento in cui arriva, tu devi essere lì sul pezzo e raccontarlo. Vuol dire raccontarlo in aereo, con l'iPad, o sulla nave, o al mare, o in montagna, o a casa col computer, però scrivere. Anche in quel caso hai un personaggio in cui che è diventato il tuo alter ego narrativo, quantomeno un protagonista? Caso, questa storia è una storia un po' particolare, perché adesso la anticipiamo, poi in realtà uscirà tra 2 mesi, per cui mesi, perché esce a fine febbraio. Se la domanda è sbagliata te ne faccio un'altra, è la storia di due donne, è nata da un cortometraggio in realtà, che avevo, cioè, l'idea base è nata da un cortometraggio che avevo girato alcuni anni fa con una magnifica attrice che era Stella Bevilacqua, che purtroppo non c'è più, per cui è dedicato, il libro sarà dedicato anche alla sua memoria, ed è un rapporto tra due donne, una vedova 'ndrangheta e un sostituto procuratore rampante, che è un'altra donna che la interroga, quindi questo lungo interrogatorio all'interno del quale si inframmezzano le storie di questa famiglia. Quindi nel cortometraggio era tutto molto più sintetico in quella scena, invece qui hai potuto esplorare tutto quello che c'è intorno, in cui si incastrano anche le vicende poi storiche dell'Italia dagli anni 80-90 a oggi quasi, quindi insomma è stata un'opera abbastanza ardita, pur nella sua dimensione non enorme, perché sarà 250 pagine, insomma ci abbiamo messo dentro tante cose, il primo bambino letterario, quindi ci abbiamo lavorato in maniera molto pesante. Beh, in quel caso sei in prima linea tu scrittore, nel senso non hai un disegnatore, non hai un inchiostratore. Non mi posso riparare dietro nessuno, per cui insomma, se va bene sono io che mi prendo i meriti, se va male mi prendo anche i pomodori. E invece El Noir è in 4 numeri, quindi è una storia compiuta. C'è la possibilità nel caso anche di tornare in questi orizzonti narrativi? Diciamo che è un romanzo compiuto ed è come se fosse un lungo numero zero, se vogliamo, in cui presentiamo anche questo mondo all'interno di una situazione. Non si sa, in questo momento nasce e muore come miniserie, però è un mondo che rimane aperto a differenza di Cassidy, quindi il personaggio rimane, tutte le situazioni rimangono, per cui se i lettori gradiranno può essere che ci sia poi in futuro un seguito. Comunque il numero 1 di El Noir è uscito questa settimana in edicola, il prossimo è a cadenza mensile, immagino? Esatto, uscirà a fine novembre e così via fino a dicembre, gennaio vedremo il finale di questa storia. Ma noi suggeriamo di comprare il primo numero, e sicuramente se comprate il primo numero dovrete continuare a leggere, perché c'è un bell'intreccio, vuoi sapere tutta una serie di cose che succedono. Abbiamo spoilerato fin troppo, però penso che abbiamo dato il gusto della trama. E poi diciamo che i lettori che l'hanno letto e anche si sono attaccati alla serie, per cui vanno avanti quasi tutti, i loro commenti sono devo dire, per fortuna positivi. Beh, credo che sia comunque compiuta stilisticamente. C'è stato questo, ha funzionato, e questo te lo dico anche da lettore, ha funzionato bene questo interscambio vostro. Questo segno di Fraghieri porta, tiene molto bene, questo doppio segno di Fraghieri gioca molto bene il doppio registro della storia. Avete anche usato un po' sulle gabbie, avete potuto anche un po' uscire, esatto, dal formato troppo rigido. In questo caso è proprio stata una cosa voluta, cioè la gabbia bonelliana, che ricordiamo viaggia su tre strisce, quindi su un numero di vignette molto definito, molto leggibile, e che è perfetta per leggere delle storie lunghe centinaia di pagine. In questo caso l'abbiamo un po' tradita, soprattutto nelle parti che riguardano il noir. Okay. Per cui c'è proprio anche lì una cosa progettata, per cui sì, le parti più oscure, con un segno più scuro, ambientate in questa città, sono anche meno, diciamo, ordinate, pur essendo assolutamente leggibili, mm-hmm, però hanno un'originalità in più proprio nella scansione delle vignette, sì, nel modo. E invece le parti nella realtà sono più ordinate, sì, più, sì, di, sì, linea, sì, chiara. Più. Anche questa era un ulteriore, ripeto, non facciamo cinema, però abbiamo usato due stili cinematografici diversi. Sì. Una diversa immersione del lettore, quindi... Esatto, e due regie. E il noir, quando sfogli e leggi le pagine del noir, ti immergi di più e sono più pericolosi, sono vicoli oscuri in cui è più possibile perdersi. Pasquale Iuriu, è stato un grande piacere averti qui in piacere trasmissione. Piacere tutto mio. E naturalmente consigliamo di comprare il noir, consigliamo quando uscirà il romanzo di tenere d'occhio il romanzo. Tu comunque hai un profilo Facebook personale, hai un blog, qualcosa su cui si, sì, può, sono essere facile da trovare, comunque ho sia il mio sito che è pasqualeruvi.it, okay, in cui che aggiorno periodicamente con le novità, okay, e con le cose sia mie che della casa editrice, okay, e poi ho una mia pagina Facebook abbastanza ormai pubblica, abbastanza, okay, visitabile, che è appunto in cui ci sono le cose mie o le cose che mi piacciono, che presento ai lettori Bonelli o fuori Bonelli. Certo, certo, assolutamente. Quindi sapete come rintracciare Pasquale lungo le sue coordinate spazio-temporali sui canali digitali. Per chiudere, visto che l'ultimo pezzo è una idea tua, ti lascio lanciare da DJ, ti cedo il posto di DJ, ti lascio lanciare il pezzo, wow, che stai già sentendo, quindi è, sì, facile. Che sarà di Fiorella Mannoia, nell'interpretazione di Fiorella Mannoia, di Cosè Feliciano. Ok, sempre per avere qualcosa di suggestivo e un po' malinconico. Sono solo una valetta, chiude qui, grazie Alessandro, grazie a Pasquale, grazie a Radio Archimede, alla prossima settimana. Quel che non ha rimedio nel...